come diciamo ormai tutti sapranno, questa notte c'è stata una scossa 4.7 nell'Alto Maceratese, nel comune di Muccia. Ovviamente questa cosa ha fatto sì che si riparlasse nuovamente su larga scala del cratere, della situazione nel centro Italia, perché, questo lo dico ovviamente con una sottile nota polemica, a parte Nino, World Radio e pochissime altre realtà indipendenti, per lo più a livello generale ci si era dimenticati di noi quasi completamente. Si è tornato a parlare quindi della situazione. Nello specifico, sì, da quando ci siamo sentiti questa mattina abbiamo fatto diverse telefonate, abbiamo parlato con diverse persone, e la cosa che colpisce di più è comunque la paura che è tornata diciamo quella dei giorni del 2016, perché chiaramente la situazione di stress non è mai andata via, e anche perché nei comuni più interni, quelli più vicini all'epicentro, tutte quelle scosse che magari di cui non si parla mai, che normalmente vengono escluse dalla narrazione comune, ma scosse da 2,5, da 3, anche le due scosse da 3,9, 3,6 che ci sono state nelle scorse settimane, diciamo chi vive lì ha una continuità per quanto riguarda lo stress, e la scossa di questa mattina è solamente diciamo una scossa più forte, che quindi fa ritornare alla memoria veramente i momenti tragici del 2016. Per quanto riguarda i danni, ci sono dei problemi, ci sono dei problemi all'interno delle SAE, come dicevo stamattina stanno circolando delle foto con dei pensi, dei mobili che siano attaccati, fortunatamente non si rilevano danni particolarmente gravi, ovviamente mi riferisco alle immagini di un anno e mezzo fa. Comunque ecco, si stanno facendo delle verifiche di agibilità a Camerino, ad esempio abbiamo parlato con un tecnico, la zona rossa al momento è stata nuovamente chiusa, anche per quanto riguarda i sopralluoghi degli edifici su cui insomma si stanno intervenendo, quindi neanche i tecnici al momento per motivi precauzionali possono entrare. Questa mattina era stata chiusa la linea ferroviaria che collega Fabriano a Civitanova Marche, sempre per motivi precauzionali, e poi è stata riaperta, però ripeto, la cosa più grave che abbiamo percepito veramente noi per primi, ovviamente, ma anche chi si trova proprio con la casa o con la SAE sopra l'epicentro, è un'enorme paura, un senso di stanchezza veramente infinito, anche perché ricordiamolo, questo qui, con la scossa di questa notte, si inserisce in un quadro di post terremoto infinito, di emergenza continua che va avanti appunto che raccontiamo da mesi e mesi.